30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il capo della transizione in Madagascar, Andry Rajoelina, ha fatto sapere che non si candiderà alle presidenziali in programma nel 2010 se tutti gli ex capi di Stato malgasci, compreso il destituito presidente Ravalomanana, faranno altrettanto. Dopo il colpo di Stato del 19 marzo scorso, l'ex DJ 38enne è diventato il più giovane presidente del continente africano, acquisendo un'enorme popolarità in pochi anni attraverso un ascoltatissimo programma radiofonico trasmesso nella capitale Antananarivo. Buonasera a tutti, la cronaca ci porta dunque ancora una volta in Africa per parlare di radio e di politica, di media e di comunicazione. Partiamo insomma dal Madagascar, 16 milioni di abitanti distribuiti lungo un'isola grande due volte l'Italia, quasi un PIL pro capite di 900 dollari l'anno, che lo pone al 115esimo posto della ricchezza mondiale. Un paese in cui attraverso una diffusione capillare delle radio rurali, delle radio cosiddette educative e dei radio club si riesce a compensare quello che oggi chiameremmo il digital divide, o meglio il limite di accesso agli strumenti di informazione delle popolazioni locali. Ne parliamo oggi, ospite con noi in studio, con Riccardo Barlam. Buonasera Riccardo. Buonasera a tutti, ciao Gigi. Riccardo Barlam è responsabile di Blog Africa qui al Sole 24 Ore, premio Baldoni tra l'altro nel 2009, complimenti. Grazie. Per una serie di articoli sul continente africano, ma possiamo dire soprattutto più complessivamente per il lavoro che svolge appunto sull'Africa e l'informazione africana. Allora, il caso malgascio, quanto conta e quanto può essere importante essere un DJ nella politica africana? Ma è contato moltissimo in questo colpo di Stato che c'è stato a marzo. Da due anni questo sindaco DJ, che è proprietario di questa radio che trasmette nella capitale, Antananarivo, attaccava senza tregua il presidente, denunciando sulle frequenze del suo network inefficienze, corruzione, malaffare, tutto quello che lui prometteva e non manteneva. La popolazione dopo un po' si è rivoltata e dobbiamo pensare che l'80% della popolazione vive in estrema povertà in questo paese, che è un paese ricchissimo di risorse naturali, potenzialmente anche di flora e fauna. E l'antagonismo tra questo presidente e il sindaco DJ della capitale è degenerato prima in violente manifestazioni di piazza e poi appunto a metà marzo in un golpe. I militari hanno appoggiato questo sindaco DJ e hanno destituito il capo di Stato e consegnato il potere all'ennesimo uomo nuovo dell'Isola Rossa. Chissà, vedremo questo uomo nuovo cosa farà, come si comporterà. Ma Riccardo Barlam, la radio dunque conta perché raggiunge in maniera capillare l'isola, e qui naturalmente è un discorso che possiamo estendere al continente. Perché funziona? Funziona perché la radio è il principale media in Africa, perché ce l'hanno tutti. Il 60-70% del territorio africano sono villaggi, sono case di fango, situazioni in cui c'è a malapena il pozzo dell'acqua e spesso non hanno neanche la luce elettrica, quindi la radio è possibile averla anche se vivi in una casa in fango. Con le batterie puoi avere la radio e essere collegato in qualche modo al tuo piccolo mondo. Insomma, ancora una volta il grande vecchio mezzo in cui oggi lavoriamo noi e vi raccontiamo l'attualità riesce ad adattarsi alla modernità. Poi c'è sicuramente anche un importante elemento linguistico. Ecco, oggi faccio un po' anch'io il DJ, visto che parliamo e siamo partiti da un DJ che diventa presidente, anche se non ho ambizioni simili. Kokom Bassi, questa voce, questa cantante bellissima, questa bellissima voce che arriva dal Camerun, se lo sentite come me probabilmente non capirete le sue parole, è una lingua appunto del Camerun. Lei è una vocalist che peraltro opera con successo tra l'Africa e la Francia. Spesso gli ascoltatori, chi opera nel mondo radiofonico e chi invece l'ascolta semplicemente, è bilingue per forza. Assolutamente, per esempio in Camerun sono bilingue ma tutti hanno il loro dialetto, ci sono 230 etnie, pensate, uno dice sono tutti neri, in realtà come noi siamo i friulani diversi dai siciliani, anche così se uno resta una settimana in Camerun capisce che sono diversi anche tra loro e loro hanno avuto questa dominazione alla fine della guerra mondiale e la perdita delle colonie tedesche, il paese è stato diviso in due fino agli anni 70, appunto la maggior parte del paese sono francofoni e due regioni sono anglofoni. E parlano perfettamente inglese e francese, ma anche le loro lingue, perché in Africa, prima degli stati coloniali, c'erano le tribù che comandavano e controllavano il territorio. Ancora oggi sono molto influenti e spesso mettere d'accordo dei capi tribù è una cosa che culturalmente noi non riusciamo neanche a capire bene la sua importanza. Spesso si riescono a, facendo parlare delle tribù, c'è adesso un'associazione neonata dei re africani, è più facile evitare delle guerre, dei conflitti appunto etnici. Anche in questo caso quindi una polifonia di lingue e nello stesso tempo delle lingue comuni che sono condivise e che permettono uno scambio informativo molto efficiente. L'inglese e il francese sono le principali lingue e poi va detto, e quindi c'è, se vogliamo un valore positivo del colonialismo che in qualche modo ha aiutato, un po' come si dice l'Italia, che l'italiano, l'unità d'Italia si è fatta quando si è cominciato a parlare italiano superando i vari dialetti. Pensate, in Africa noi dovremmo parlare di Afriche perché sono 54 stati e al loro interno hanno etnie diversissime. E un'altra cosa che va considerata è la musica, che la musica per noi è importante ma non come in Africa. In certi paesi come il Camerun è una colonna sonora che segue la vita delle persone in tutti i luoghi, dall'autobus ai villaggi con le case di fango. È una colonna sonora costante nella vita, pur nelle mille difficoltà che hanno, e anche rivela il loro spirito. E quindi le radio locali, oltre a trasmettere informazioni di servizio, ma anche news, quello che succede nell'ambito locale, hanno molta importanza per la musica. I am an African. Suggestione di una voce che è quella dell'ex presidente del Sudafrica Thabo Mbeki, che dice I am an African e racconta il suo essere africano su un sottofondo molto bello, molto toccante. Spesso i grandi discorsi anche della politica di questi anni, abbiamo citato Thabo Mbeki, quindi potremmo parlare del Sudafrica, sono passati attraverso la radio. La radio che costruisce il consenso, ma che è anche radio di servizio, appunto quella che forse una volta era la radio rurale, oggi è anche la radio dei migranti e quindi che cambia all'interno del continente africano. Io vorrei chiederti ora di raccontarci invece di una radio particolare a cui tu tieni molto, si chiama Lebialem Community Radio, The Voice of the People, mi hai detto di aggiungere, perché è importante, quindi la voce della gente, e ci porta dall'altra parte di fatto dell'Africa, nel Camerun nord-occidentale. E sono stato lì a gennaio nel Camerun nord-occidentale, che è quello anglofono, e ho conosciuto i giornalisti di questa radio. Sono stato lì per fare una scuola di giornalismo, diciamo così, anche grazie ai proventi di questo premio Baldoni. Erano una trentina di persone di diverse provenienze, molti insegnanti, c'era un pastore battista, molti giornalisti della radio e anche alcuni giornalisti della capitale Yaoundé e di Douala. La cosa interessante di questi ragazzi della radio, il loro entusiasmo, la loro passione per questo mestiere, è che il secondo giorno erano tutti arrivati con un tesserino con scritto press, perché erano iscritti a questo corso di giornalismo che è tenuto da un giornalista occidentale. E loro, questo per farvi capire, e loro seguono, io gli ho portato, Gigi, tu lo sai benissimo, anche alcune cose, grazie a te, alcune attrezzature tecniche pratiche per fare radio, perché le radio sono analogiche, no? E proprio in questi mesi hanno avuto un finanziamento, credo, dall'ambasciata giapponese per costruire un'antenna che permetterà appunto di trasmettere il loro segnale in tutta la regione, questo Lebialem, un'area in mezzo alla foresta tropicale dove ci sono case sperse in mezzo alla foresta. Quante persone abitano in questa regione? Abitano circa 300.000 persone, quindi su una superficie grande come forse metà della Lombardia. Così. E i quotidiani, si acquista il quotidiano al mattino? I quotidiani si acquistano nelle città ci sono quotidiani che sono fogli molto diversi dai nostri, sono di poche pagine perché hanno meno soldi, e ci sono tanti quotidiani. Però è la radio soprattutto. Ma è la radio soprattutto lo strumento che hanno tutti, perché non costa, perché segue un po' anche tutta la giornata delle persone lì. Adesso gli amici di Radio Lebialem appunto hanno queste antenne e coprono tutta l'area con le loro voci del Lebialem. Un'altra possibilità che c'è ora con internet è di far arrivare le voci delle radio africane anche agli africani che sono all'estero, in Europa, negli Stati Uniti. Ecco, di questo parleremo tra un momento, perché l'elemento è anche il connubio tra la radio, abbiamo detto lo strumento ormai vecchio, si fa per dire, con le ultime tecnologie disponibili, è davvero impressionante. Sembra che si stia indirizzando e creando un connubio assolutamente naturale. 30 minuti in cronaca. Domenica 19 giugno 1994, quella che sentite in sottofondo è Radio Milcolin. Dice: il Ruanda appartiene a chi è veramente ruandese. Tra noi ci sono degli scarafaggi che dobbiamo schiacciare. La nostra fortuna è che i Tutsi sono pochi. Pensavamo fossero il 10%, ma sono molti meno. Insomma, questo è un caso celebre di come lo strumento, il media, la radio in questo caso, diventi uno strumento di morte. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che si chiama Fongiun de Messa Fausta. Buongiorno, benvenuto a questa trasmissione. Buongiorno. Lei è dottore in cooperazione internazionale e politiche dello sviluppo sostenibile, ma autore soprattutto in questo contesto di un libro, si chiama La radio e il macete, il ruolo dei media nel genocidio del Ruanda. Beh, allora, che ruolo ha avuto? È stato veramente così importante la radio per scatenare il genocidio del 94? Sì, la radio ha giocato un ruolo molto importante nel genocidio in Ruanda. Prima di tutto, per analizzare l'importanza della radio in Ruanda, dobbiamo dividere i mezzi di comunicazione, soprattutto la radio, in due. Abbiamo le radio interne, che sono la radio interna, che è la radio di Milcolin, che abbiamo appena sentito un pezzo, che ha fomentato e era lo strumento nelle mani degli organizzatori del massacro, no? Ha giocato un ruolo proprio logistico, diceva anche il i posti dove i Tutsi che dovevano essere uccisi erano nascosti. Quindi indicava i nascondigli, andava posto tappa per tappa dicendo: andate in quel luogo, ne troverete alcuni? Esatto, diceva proprio, quando dava il nome di qualcuno, 5 o 10 minuti dopo la persona veniva ucciso. Ecco, Radio Milcolin, che diciamo ambito raggiungeva? Cioè riguardava solamente la capitale o si estende oltre, diciamo? Perché è impressionante l'idea che, come dire, una radio possa dire nome e cognome di una persona, andate a ucciderlo, è veramente sconvolgente. Ed è proprio qui che entra la grandezza della radio, no? Perché molti studiosi della comunicazione, con la nascita dei nuovi media, internet e tutto, hanno detto: ormai la radio non ha più la sua potenza. Ma in Ruanda la radio ha mostrato che vive ed è ancora molto forte. In che senso? La radio è un mezzo di comunicazione che funziona con il sonore, e in più in un paese come il Ruanda, dove l'elettricità non arriva dappertutto, la radio ha questa funzionalità che va con la pila. Allora la gente in qualsiasi angolo del paese riusciva a seguire la radio quando non poteva, per esempio, comprare i giornali, quando non poteva avere una televisione a casa. Anche i gruppi che facevano il lavoro, come chiamano, le uccisioni, sì, Interahamwe, in ogni gruppo c'erano alcuni con la radio, perché è proprio quella radio de Milcolin che dava l'informazione come continuare le uccisioni. Per dire, la radio in Ruanda ha giocato un ruolo molto importante per la sua funzionalità, per il fatto che la radio prima di tutto è un mezzo per i giovani, e quelli che dovevano compiere i massacri erano i giovani. È interessante, lei ha parlato di un mezzo per giovani in un continente giovani, con un accesso a basso costo, addirittura ha evocato effettivamente il transistor, che ha trasformato tanti anni fa la modalità di ascolto. Che cosa è cambiato, o meglio, dopo la drammatica esperienza del 94, proprio nel panorama ruandese, che ruolo ha la radio? In che modo interviene, magari per lenire o trasformare quello che nel 94 ha fatto in una maniera disastrosa? Direi che adesso c'è un gran cambiamento nel panorama mediatico in molti paesi africani. Prima di tutto siamo partiti dal monopartitismo al multipartitismo, anche se questo dobbiamo descriverlo, ma non è il momento, che ha portato anche un'apertura mediatica. E questa apertura mediatica ha portato anche la crescita delle radio locali. Io citerei per esempio nel mio paese presenze come Radio Lolodof o Benue, Radio Benue, che sono a contatto con la comunità locale e riescono a diffondere messaggi di pace. Perché quello che voglio dire con la radio, o come tutti i mezzi di comunicazione di massa, è uno strumento a doppio taglio, no? Dipende da chi lo usa. Assolutamente, assolutamente, questa è sempre la chiave. Io ringrazio Fongiun de Messa Fausta per essere stato con noi. Ricordo il suo libro La radio e il macete, e vi invito a una lettura per conoscere meglio l'Africa, conoscere anche dei meccanismi che poi si erano già visti pochi anni prima in Bosnia, per esempio, alle porte di casa, esatto, nostra, la costruzione dell'odio. Africa, Africa, yeah. E qui siamo a Pino Daniele, ma in una sua bellissima evocazione dell'Africa. Allora, Riccardo Barlam, abbiamo pochi minuti ancora per farlo, il futuro della radio in Africa, ma non solo, e il legame con internet. Funziona? C'è spazio? Funziona, ha delle possibilità incredibili. Pensate che in Kenya, quando ci sono stati i moti dopo le elezioni, che non rivelavano dei risultati esatti, le notizie arrivavano attraverso le radio con i telefonini, perché è quello che è cambiato in Africa, che hanno tutti i telefonini adesso, tutti, anche i poveri, anche nei villaggi, e quindi il telefonino collegato alle radio era uno strumento incredibile per far correre le notizie. Internet poi è una grossa, come dire, possibilità per far conoscere queste voci all'esterno, al mondo. È semplicissimo, il passaggio è semplicemente dalla tecnologia analogica e digitale. Quello che sta succedendo in Africa in questi momenti, pensate che le ultime statistiche mondiali sulla diffusione di internet in Africa parlano del 5,6% della popolazione che ha accesso al web. L'Africa però è il mercato delle TLC, delle telecomunicazioni, a più rapida crescita del mondo. Pensate che Microsoft, il gigante Microsoft che controlla, diciamo, tutti i nostri computer, dicono che hanno già adesso un giro di affari più grande in Africa che in Cina e in India, circa $1 miliardo ogni anno di fatturato. Questo per farvi capire le possibilità che ci sono con la diffusione di internet, pensando anche che appunto in Africa i computer non si diffonderanno mai come in Occidente, perché non ci sono in certi posti le possibilità di avere la luce, di avere la connessione, sono costosi, ma con la diffusione degli smartphone, questi telefonini, certo, computer, sarà più facile. Si salta ancora una volta uno step. In una battuta, so che tu stai lavorando anche su questo fronte per la creazione di una rete. Sì, una rete di giornalisti africani. Abbiamo, dopo questa esperienza della scuola di giornalismo in Camerun, abbiamo avviato con alcuni ragazzi lì un sito che si chiama Africa Times News, www.africa-times-news.com, ed è un tentativo di creare una rete di giornalisti africani in tutti i paesi. Per ora siamo diffusi in 4-5 paesi, che aggiornano sul web in tempo reale le notizie del loro paese e in tutto il mondo, insomma, sia in Africa ma anche noi in Occidente possiamo conoscerlo in questo modo. Grazie mille a Riccardo Barlame. A proposito di rete di informazione africana, io saluto il nostro ultimo ospite di oggi, Fabrizio Colombo, direttore di Afriradio. Buongiorno a voi. Allora, Afriradio è una realtà che alcuni conoscono, altri no. Io vorrei che, in un minuto e mezzo ce la descrivesse. Significa portare la radio africana, però in Italia, partendo da Verona. Esatto, molto brevemente, Africa Radio nasce dall'esperienza dell'Istituto di Nigriz, la nostra rivista che da più di 10 anni informa sull'Africa qui in Italia in modo molto autorevole. Ecco, abbiamo voluto creare Africa Radio però con uno stile anche un po' diverso, magari un po' meno, tra virgolette, impegnato, che sia anche un po' una radio di entertainment che possa informare certamente ma anche divertire. Ecco, diciamo, uno degli obiettivi principali di fare questa radio in Italia che parla d'Africa, e siamo la prima e unica radio web che è unicamente dedicata al continente africano, ecco, l'obiettivo principale è quello di sovvertire un po' lo stereotipo. Non è solo l'Africa della povertà, dell'AIDS, delle guerre, ma anche l'Africa che ha voglia di cambiare, di voltare pagina, di proporre cose nuove sia dal punto di vista economico, artistico, culturale, turistico, e soprattutto spazio anche tantissimo alla musica, e tenendo poi come target ovviamente il mondo dei giovani, eccetera. Ecco, chi vi ascolta, o meglio, vi ascoltano gli africani, vi ascoltano gli italiani o tutte e due? Credo che ci ascoltino tutti e due, anche perché appunto uno degli slogan di Africa Radio è proprio Africa Radio, la radio con l'Africa dentro. E diciamo, la cosa interessante è che diciamo, i realizzatori, i produttori di programmi radiofonici sono proprio o studenti o comunque esperti africani che insieme con i nostri giornalisti fanno parte dell'equipe produttrice, diciamo, di Africa Radio. Quindi abbiamo come obiettivo raggiungere anche un pubblico, non solo quello che è interessato all'Africa o il solito, magari un po' di nicchie della nostra rivista, ma anche il mondo dei giovani immigrati, sia della vecchia generazione che le generazioni 2. Insomma, infatti, aprire anche gli orizzonti attraverso l'informazione, la comunicazione, ma anche tutto quello che non è necessariamente la hard news. Io ringrazio Fabrizio Colombo, lo ricordo, direttore di Africa Radio, che trovate appunto sul web, come sul web trovate tutte le trasmissioni di Radio 24, a radio24.it, da ascoltare e riascoltare con tutte le informazioni. Non mi resta che ringraziare Carmelo Lauricella in regia e augurare a tutti voi un ottimo fine settimana.